La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16 8 primi, 28 secondi. Oggi una puntata per me, ve lo voglio dire, un po' particolare, perché no, non parliamo dei dati economici del giorno, e per questo vi rinvio a Focus Economia con Sebastiano Barisoni dopo, perché comunque sono molto incoraggianti. C'è un dato annuale sulla produzione industriale ad agosto che supera il 5% positivo, quindi bene, ci sono ordinativi molto forti, il 68% delle macchine strumentali per la produzione robot e così via, più 68%, gli incentivi di industria 4.0, quindi tutto bene, ci sono i mercati. Però la notizia vera internazionale del giorno è che tremano un po', perché siamo tutti il respiro trattenuto in attesa di quello che avverrà alle 18 a Barcellona, e vedremo se si trova una via d'intesa di trattativa tra la Catalogna e la Spagna, o se purtroppo la ragionevolezza mancherà ancora una volta, e speriamo di no, perché le conseguenze possono essere veramente imprevedibili. Ma non parliamo neanche del tumulto politico italiano, invece molto più modesto, in corso sulla richiesta di fiducia e sull'ok dato dal governo alla fiducia sul Rosatellum bis, ma parliamo di una cosa che per me è un atto dovuto. Oltre ad avere grande rilevanza nelle vicende poco chiare bancarie di questi anni, in una delle vicende meno chiare di tutte, cioè quella che riguarda il Monte Paschi, per me è anche un debito personale, perché oggi parleremo, grazie a un libro che esce e di cui io sono molto grato all'autore, di un suicidio a cui io non credo, perché fino a prova provata ciò che conosco di questa vicenda, e che io spero avrete la curiosità di approfondire leggendo il libro di cui parliamo oggi con il suo autore, è una giornalista che segue le vicende di Siena, come dell'economia, della finanza, delle banche italiane, da anni, passo passo, e segue quelle di Siena a maggior ragione perché è fiorentina, toscana, e l'ha seguita passo passo per anni. Ecco, a me l'evidenza dei fatti che ci sono noti non mi convince di questo suicidio. Conoscevo personalmente la persona di cui parliamo da anni, come tanti altri colleghi. Rimasi traumatizzato quel giorno, e ne sono rimasto sempre di più dopo, man mano che i particolari di cui parleremo oggi, ricostruiti in questo libro, si aggiungevano e consolidavano in me, posso sbagliare, l'impressione che ci fosse un non detto grande come una casa. Allora, torniamo indietro a quel giorno, cari ascoltatori. Era il 6 marzo del 2013. Abbiamo unito in un brevissimo file audio la notizia ai telegiornali, e subito dopo troverete l'epilogo attaccato, l'epilogo, perché è una delle due archiviazioni che sono avvenute nel frattempo. David Rossi, responsabile dell'area comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, si è ucciso questa sera gettandosi da un ufficio della sede dell'istituto. David Rossi fu suicidio. Questo almeno è il parere della Procura di Siena, che ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte del capo comunicazione del Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013. Le indagini, scrive il procuratore Salvatore Vitello, portano a ritenere ragionevole l'ipotesi del suicidio e altamente improbabile quella dell'omicidio. Ecco, altamente improbabile, ragionevole. Allora, il libro di cui parliamo oggi esce il 12, quindi dopodomani, nelle librerie. L'editore è Chiare Lettere, il titolo è molto chiaro: il caso David Rossi, cioè il responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi, era stato responsabile della comunicazione del Comune di Siena anni prima, che la sera del 6 di marzo, nella pioggia, muore su una stradina interna che antefaccia rispetto alla sede del Monte Paschi a Siena. E l'autore di questo libro, che secondo me fate bene a leggere, è Davide Vecchi, che ringrazio molto, perché non solo alla moglie Antonella di David, alla figlia Carolina, eccetera, ma ai tanti colleghi che hanno voluto bene. Perché nel mio caso c'era anche questo aspetto, ci siamo visti un mucchio di volte, come potete immaginare per un giornalista che si interessa e ha un parere acuminato sulle vicende bancarie come il sottoscritto, quello che poi ogni sabato è con Tela Belva sentita e con Carlo Alberto Carnavale Maffè, Mario Seminerio, le vicende di Siena erano vicende da incredibilmente interessanti, quindi a me è capitato come a tanti, ma un mucchio di volte, di incontrarlo, parlargli, cercare di saperne di più su tutto quello che a Siena era avvenuto, dal caso Anton Veneta alle vicende con Nomura, Alexandria, Santorini e così via. Ed era nel fuoco di queste indagini lo sfondo in cui avviene la sua incredibile, per noi che lo abbiamo conosciuto, determinazione di farla finita. E Davide Vecchi, grazie per aver scritto un libro in cui stai sull'essenziale, se posso dire, non romanzi, ma è una testimonianza, dati, numeri, ore e minuti alla mano, che secondo me così rende più chiaro a tutti, e questa è la mia speranza, che tutti abbiano più chiaro nel leggerlo, fin dal primo capitolo in cui David Vecchi ricostruisce minuto per minuto quello che avviene tra le 19.06 e le 19.42, sono i minuti di cui non sappiamo nulla e le indagini non hanno approfondito in nessun modo, secondo me, che cosa davvero è avvenuto nell'ufficio di David Rossi dalle 19.06, quando chiama la moglie e dice sto arrivando con la cena, a invece pochi minuti dopo, quando le telecamere di sicurezza ne riprendono il corpo giù. E nel frattempo, non è che alle 19.42 finisce il giallo, il telefono David Rossi continua a ricevere e a fare telefonate, quindi qualcuno ne ha anche fatte di telefonate, prima che arrivi poi l'ambulanza, la polizia, eccetera, eccetera. Allora, intanto grazie a Davide Vecchi di aver scritto questo libro. Grazie a te Oscar, buonasera. Che cosa ti ha spinto a farlo? Ma la necessità di capirlo e poi rendermi conto, mesi per mesi, anni dopo anni, quanto fossero state fatte male le indagini, perché è inutile girarci intorno ed evitare, no, di dire le cose per quello che sono. Noi siamo arrivati a Siena nel gennaio 2013, tutti catapultati per, ti ricorderai, perché certo, pubblicammo appunto il Mandate Agreement, questo contratto segreto che poi tanto segreto scopriremo dopo, non era, tra Nomura e MPS sui derivati Alexander e Santorini, e poi mano a mano ci occupammo di tutto quello che riguardava Siena. Io ricordo, per chi è in ascolto, un contratto che nelle vicende formali ufficiali delle inchieste nella versione di Banca Italia risulta una delle circostanze su cui la Banca d'Italia ritiene che sia stata aggirata e delusa la sua vigilanza, tranne poi riaffiorare in una cassaforte dopo. Ecco, una vicenda alla quale, per quello che mi riguarda direttamente, ho i miei elementi per dire che non credo assolutamente. Chiusa la parentesi. La tira fuori Viola, no? Dopo sei mesi, ecco. Sì, ce l'avevo in cassaforte, in questi sei mesi non me lo sono mai ricordato. Mano a mano Siena venne coinvolta totalmente, trascinata nel nulla, l'università, le squadre di calcio, di basket, no? Che erano tutte iperblasonate a livello internazionale, a seguito dei problemi finanziari della fondazione e della banca MPS, mano a mano addirittura l'università non poté rinnovare i contratti ai ricercatori, quindi insomma fu una tragedia immane per tutta la città. E mentre proprio il giorno dopo la pubblicazione della notizia del maxi sequestro a Nomura compiuto dalla procura, ti ricorderai anche quello, la notte David Rossi viene trovato morto nel vicolo sotto il suo ufficio. Dopo appena tre mesi, quindi già a giugno, i magistrati dissero che erano pronti a archiviare e che per loro era suicidio. Ora, noi lavoriamo, chi sui bilanci, appunto, che fa giornalismo finanziario, noi che seguiamo la giudiziaria, sugli atti della magistratura. Quindi se dei magistrati di una procura della Repubblica sostengono che di aver fatto le indagini, sono arrivati alla conclusione che è suicidio, lì per lì dobbiamo prenderle per buono. Quando poi abbiamo visto le carte, ci siamo resi conto che in realtà tutte queste indagini non sono state fatte. In più l'archiviazione dopo 2 anni ha portato, grazie ai familiari, hai ricordato Antonella Tognazzi, che la vedova e la figlia di lei, Carolina Orlandi, che è una ragazza giovanissima, sveglia, e devo dire sono stati inizialmente abbandonati da tutta la città, adesso fortunatamente hanno maggior sostegno nella ricerca della verità. Loro hanno sono riusciti attraverso i periti e i propri legali a far riaprire indagini da un magistrato nuovo appena arrivato a Siena nel 2015, che dopo aver riaperto le indagini, dopo appena 6 mesi, fa un salto di carriera enorme e viene nominato procuratore capo e trasferito d'urgenza a Urbino, dove tuttora è. Queste seconde indagini rendono con evidenza tutti i buchi e le falle della prima indagine. Ad esempio, tu hai ricordato, alle 19.06 David chiama la moglie per avvisarla che torna a casa. E da lì in poi c'è un buco di 40 minuti, perché poi i primi a chiamare i soccorritori saranno alle 19.42 a raccorgersi che è accaduto. E ci sono, ad esempio, ci sono i PM, si scoprirà nella seconda indagine, che hanno distrutto, prima ancora di analizzarli, prima ancora che l'archiviazione fosse avvenuta, prima ancora di comunicare i patenti, ma il 14 agosto, quindi durante il periodo feriale, cioè le vacanze sostanzialmente della procura, hanno distrutto 7 fazzoletti di carta che erano stati trovati nell'ufficio sporchi di sangue, e senza avvisare nessuno e senza prima analizzarli, reperti fondamentali. Reperti fondamentali anche perché alla luce delle scoriazioni erano presenti sul corpo, i fazzoletti sporchi di sangue sopra potevano essere una delle prove fondamentali per testimoniare che c'era stata una colluttazione prima che il corpo andasse fuori. E considera che colluttazione, che fra l'altro i periti nominati dalla stessa procura nella seconda indagine arrivano proprio a questa conclusione, sono gli stessi periti che dicono che le indagini iniziali sono state fatte male e in più che sicuramente David è stato oggetto di una colluttazione prima di uscire dalla finestra del suo ufficio invece di usare la porta, anche perché tutte le lesioni e gli ematomi, sono oltre 30, che aveva sul corpo, dalla parte anteriore del corpo, non sono assolutamente compatibili in alcun modo con la caduta. Ora, tutte cose che non vengono assolutamente, delle quali nessuno tiene mai conto. Ma poi, voglio dire, dai tabulati del telefono, chi risponde al telefono e attacca quando lui è già, quando Davide Rossi è già per terra? Chi fa cadere 20 minuti dopo l'orologio che non cade insieme al corpo di Davide Rossi? Cioè, dei macro elementi di fronte ai quali, cari ascoltatori, le richieste di archiviazione confermate nella seconda, però sono tutte domande, non è, capite, il giornalista amico che si mette a dire no, non ci credo perché sono un pistarolo nell'ambito di quello che succedeva a Siena, chissà cosa è successo, di fronte a un qualunque evento mortale di questo tipo, troppi particolari concreti nei minuti decisivi vengono lasciati totalmente imperseguiti, totalmente non approfonditi. Si può pensare che il primo magistrato accogliesse per buono la tesi del sovrintendente di polizia e del suo assistente che lì per lì subito gli fa trovare il verbalino, ah, è un suicidio, dicono subito che è un suicidio, che problema c'è? Ma poi neanche nell'approfondimento a cui si arriva su domanda della famiglia, com'è possibile questo, Davide Vecchi? Ah, guarda, io, come hai giustamente detto te, ho cercato di attenermi solo esclusivamente agli atti dell'indagine. E quello ho fatto proprio per evitare di finire, no, di essere strumentalizzato, che qualcuno potesse dire, soprattutto a Siena, no, ma erano amici, cosa che fra l'altro io e David avevamo un rapporto di conoscenza, non avevamo grandi rapporti, insomma, personali. Ma per evitare appunto che qualsiasi persona potesse strumentalizzare questo libro, io mi sono solo esclusivamente attenuto agli atti. Ma per di più, di fronte all'evidenza del fatto che lui aveva dichiarato, cioè, cari, voglio parlare con i magistrati, ci sono le telefonate con cui parla il 6, il 5, il giorno prima, con Viola, l'amministratore. Esatto. Poi. C'è una telefonata, tu hai citato le telefonate, scusami, ti interrompo. No, c'è una telefonata nei tabulati, si può dire. Per 23 secondi qualcuno risponde all'onorevole Santanchè, che ha chiamato al telefonino di David perché aveva saputo, appunto, e non, anche lei era molto amica di David, non credeva alla notizia che le era stata riportata, quindi che David era morto, e aveva provato a contattare David sul suo telefonino, e qualcuno le risponde per 23 secondi, non si sa chi le abbia risposto, per dirne una, e tantissime altre cose, i tabulati, l'orologio che cade dopo, addirittura il video, nel primo video che fa il primo agente che entra nell'ufficio di David, c'è la giacca buttata male, ci sono delle agende e dei telefonini e altre cose che poi spariranno dalle foto della scientifico. La giacca è posizionata ordinatamente sulla poltrona, gli occhiali sono, che David non toglieva mai per ovvi motivi, sono appoggiati correttamente sulla scrivania, e tanti oggetti, anche secondo la famiglia, sono spariti sostanzialmente, agende, registratorini e via dicendo. Allora, la domanda che ti faccio prima di andare alla nostra seconda, poi la seconda ospite, che ho già presentato quando è iniziata la trasmissione, forse non era collegata, come mai però il fascicolo che viene immediatamente aperto dal pubblico ministero che era di turno, uno dei quattro, l'unico che non era già fino ai capelli coinvolto nelle indagini in corso sui diversi aspetti delle indagini su MPS, come mai però il fascicolo che viene immediatamente aperto porta come fattispecie l'ipotesi di indagine quella di istigazione al suicidio? Io un'idea me la sono fatta, non tanto sul perché arrivano all'istigazione al suicidio e quindi non indagano, non tengono in alcun modo in considerazione l'ipotesi che fosse un omicidio. Io piuttosto mi sono fatto un'idea sul perché non abbiano fatto indagini per accertarsi che si trattasse di suicidio o omicidio. David era stato oggetto di perquisizione 10 giorni prima proprio da parte dei PM, esatto, perché lo ritenevano un punto nevralgico dei contatti tra Mustari e i vecchi vertici, che all'epoca ed era, parliamoci chiaro, sicuro, per chi conosceva le cose a Siena, è il rapporto solidissimo, personale, ma fortissimo che c'era tra David Rossi e Mustari, era fondato, perché David Rossi non era il comunicatore dei comunicati, insomma, per chiunque lo sa che ci ha avuto a che fare, quindi Sì, però anche lì fanno delle perquisizioni pesantissime, ripeto, sempre da verbali, perché poi io nel libro uso solo i verbali e le risultanze di quello che c'era nelle carte delle indagini. Loro fanno delle perquisizioni pesantissime, sia a casa, sia in un ufficio a Roma e in un ufficio in uso a Milano. Nella macchina bloccano, vanno in contemporanea dalla moglie e da lui, in modo tale che loro non parlino tra loro. E tutte queste perquisizioni partono solo da un verbale. Un verbale interrogatorio nel quale Valentino Fanti sostiene che David Rossi fosse uno delle quattro persone che davano del tuo a Mustari. Questo è il motivo per il quale fanno queste perquisizioni. Allora, perquisizioni nelle quali non trovano nulla. Fermiamoci qua un secondo. Camilla Conti, giornalista del Giornale, credo la seconda persona che ho sentito quando uscì la notizia, non mi vergogno a dire, perché è la realtà, che non riuscimmo a impedirci le lacrime, perché era una vicenda che ai nostri occhi andava al di là, pur essendo attentissimi a tutto quello che veniva a Siena, alle indagini, eccetera, eccetera, eccetera, ci si raccontava ogni giorno quello che ciascuno immaginava o aveva scoperto, ma questa vicenda rappresentava ai nostri occhi, proprio perché conoscevamo bene Davide Rossi, un evento di fronte al quale l'impensabile si materializzava. Grazie intanto, Camilla, di essere qui con noi. Grazie a voi. Chiedo anche a te di stare ai fatti. Quando si sono sciorinate, come di fronte a chiunque di noi, cronista o editorialista, i particolari che non tornavano di quello che avvenne quando ci siamo, era venuto poco prima di quando ci siamo sentiti quel giorno, che cosa hai pensato di fronte a tutti questi approfondimenti? Ne abbiamo solo messi per i nostri ascoltatori che magari giustamente non conoscono la vicenda, nel libro è tutto descritto minuto per minuto, ma quando li abbiamo visti sciorinati di fronte alla prima richiesta di archiviazione, poi all'azione della famiglia, alla seconda richiesta di archiviazione, e a quel punto, facendo il nostro mestiere, anche tu li hai visti sciorinarsi, che cosa hai pensato? Allora, ti premetto, l'hai già detto tu, che quella sera, tra l'altro eravamo insieme quella sera, quando è successo, quel 6 marzo del 2013. Sì. L'abbiamo saputo, basta, io mi ricordo intorno a 10 alle 9 la sera, sì, sono state le 9, lacrime eccetera, e subito, mi ricordo anch'io, e questo Davide lo scrive nel libro, si parlò di suicidio, ma non ci fu nemmeno un retropensiero. Detto questo, quando la prima volta che sono usciti tutti i dettagli, orologio, caduta, perizia, controperizia, torsione del busto, tutti i dettagli molto da spy story più che da... Io sono una giornalista finanziaria, quindi non sono una cronista giudiziaria come Davide, quindi sono dettagli anche che poi vanno masticati e bisogna assimilare dal nostro punto di vista, in realtà erano già usciti prima sul Report, poi ne aveva parlato una trasmissione locale a Siena con due giornalisti locali, una del Corriere Fiorentino e Daniele Magrini di Siena, avevano già fatto tutto l'elenco dei dettagli. Poi Davide nel libro li mette tutti insieme con una precisione accuratissima, devo dire, rispetto a quello che avevamo visto in video. Io ti dico che sono sempre stata convinta e resto convinta che quello di Davide sia stato un suicidio. Non ti posso spiegare in 5 minuti il perché, e poi si entra in questioni personali, anche in rapporti personali, perché comunque io Davide, come Davide, lo conoscevo come una persona con cui aveva a che fare da anni. Sì. Non ci stimavamo reciprocamente, anzi forse ci detestavamo reciprocamente, e non ho problemi a dirlo nemmeno adesso, però lo conoscevo, chiaramente non a livello personale, non ero un amico. Il punto però, spieghiamo un secondo a chi è a casa, che crede che adesso ci siamo elementi personali, il problema no, è che ovviamente per chi era il capo della comunicazione del MPS, facendo Camilla Conte il suo mestiere di giornalista, certo, che andava a fondo su tutti gli elementi che non ci tornavano degli andamenti della banca, della gestione del Nomura eccetera eccetera, come è ovvio, Davide Rossi non aveva proprio in cima ai suoi rapporti d'amore i giornalisti che più intignavano sulle vicende, come Camilla Conte. No, ci tengo a dirlo, perché sennò immaginavamo che a casa pensassero che fosse una ragione di stima personale. Era in ragione del fatto che tu sei una cronista d'assalto sulle vicende finanziarie. Detto questo, quindi non voglio viziare la mia opinione, non voglio ragionare su quello, non voglio dire perché io sono convinta sia stato un suicidio. Di fronte alla tua domanda rispondo, di fronte a tutti quei dettagli, la prima reazione è stata la reazione che credo abbia avuto Davide scrivendo il libro, che poi l'ha portato a scrivere il libro. Una specie di processo alla procura. La prima reazione è dire: ma tutte queste cose perché vengono fuori adesso? Perché non sono state affrontate prima? Come sono state fatte le indagini? E questa è stata la prima reazione. La seconda reazione che io ho avuto, e non l'ho avuta solo io, però era già successo la prima volta al primo video di Report, poi con la televisione locale che trasmette tutti i dettagli, adesso con la prima puntata delle Iene la settimana scorsa, la puntata delle Iene che ha intervistato l'ex sindaco Pierluigi Piccini l'altro giorno. La mia sensazione però, e forse anche qui viene fuori l'aspetto, io ho seguito questa banca ormai dal 98, quindi dal punto di vista finanziario in anni non sospetti, è che tutte le volte che viene fuori questo caso, il caso venga strumentalizzato. Davide prima ha detto: io non voglio essere strumentalizzato, cioè, ma questo è chiaro, e non deve essere così. Purtroppo, secondo me, attorno a questa vicenda c'è stata e continua ad esserci una strumentalizzazione. Vorrei aggiungere che nel 2018 ci sono le elezioni comunali a Siena, c'è una campagna elettorale che è già partita ed è già rovente. Come sempre a Siena, una città particolare, la politica locale, i piccoli potentati, che ormai tanto potenti non sono più, Senesi e la vita della banca, sono sempre stati aggrovigliati, con questo termine ormai quasi abusato, del groviglio armonioso. E quindi anche questa vicenda, secondo me, qualcuno se ne sta un po' approfittando per impedire che affiorino responsabilità che vanno al di là di che cosa è successo a Davide Rossi. Ci sono responsabilità grosse, secondo me, che vanno ancora chiarite nella gestione della banca e nella collusione che c'era fra i poteri interni alla banca e il potere politico locale, e non solo locale. Secondo me qualcuno se ne sta un po' approfittando. Aspetta, se ne ha approfittato in passato, io siccome lo sta facendo ancora adesso. Conosco, so che la pensi così, per questo ho anche invitato, perché è utilissimo che i nostri ascoltatori che non conoscono tutti i dettagli della vicenda e così via, e infatti io li invito a leggere appunto il libro, ripeto il titolo, Il caso Davide Rossi, Chiara Lettera, editore di David Vecchi, che è qui con noi. Però so che tu la pensi così. Io l'ho sempre pensata fino all'inizio un po' diversamente, e a dire la verità però condivido la tua opinione sulla strumentalizzazione. Per questo io non ho fatto alcun cenno, per esempio, alle dichiarazioni dell'ex sindaco Piccini alle Iene, perché a me, francamente, aggiungere elementi sulle cene, le orge, è tutta roba che io riconduco a quello che tu dici adesso, cioè agli interessi di strumentalizzazione. C'è la campagna elettorale, ognuno ha i suoi interessi, ma io rimango fermo invece agli elementi fattuali di quei minuti. Ecco, e sono elementi fattuali ai quali oramai è inutile illudersi, cari ascoltatori. Nessuno è più in grado di avere una risposta precisa, perché le indagini non sono state fatte. Qui, Camilla, la cosa che ti chiedo è strumentale rilevare che ci sono un po' troppe coincidenze nella ricostruzione di quei minuti? Che penso io, ti ripeto e sottolineo mille volte, non faccio la cronista giudiziaria e ho letto una parte degli atti, ma non tutti, come invece ha fatto Davide, e che poi in gran parte ha riportato nel libro. Non ho la verità, posso dirti che la mia sensazione è anche che se ci sono state due archiviazioni e sette magistrati si sono occupati della vicenda, all'inizio magari male, ci saranno state fatte male le indagini, inizialmente, come ti ho detto dall'inizio, la prima reazione è stata dire ma come le hanno fatte queste benedette indagini, sono delle cose che non tornano. Però mi sembra anche strano che dopo due archiviazioni, cioè che complotto, cioè la risposta che mi manca è se nel processo alla procura, per come sono state fatte le indagini, qualcuno ha dolosamente sbagliato, omesso, non indagato, per quale motivo, cui protest e perché, cioè che complotto c'è dietro? Allora c'è un'unica verosimile ipotesi, che verosimile, poi ce ne posso fare tante altre di cose che non sappiamo ovviamente e ne mai sapremo, di chi in quelle ore era in quel palazzo, perché di questo si tratta. Però diciamo, logicamente si può immaginare che dietro l'orologio, la risposta al telefono, le risposte al telefono e così via, ci siano i segni che ragionevolmente uno non è che può non escludere e dovrebbe essere stato obbligato ad approfondire, di presenze di persone della banca nella stanza di David Rossi dopo la sua telefonata alla moglie, prima che finisca giù, e che poi continuino a operare in quella stanza per far sparire materiale. Ma questa è un'ipotesi. Per vedere chi al telefono, chi sta chiamando e rispondere pure, perché i telefoni non rispondono da soli, come è evidente, anzi viene pure fatta una telefonata, questo poi è bello, che verrà rifatta quando il telefono è già nella disposizione dei poliziotti, altra cosa veramente abbastanza inverosimile, però risulta dai tabulati. Questa è l'ipotesi che a me, e io vedendo gli altri, io non riesco a capire come non sia stata approfondita in maniera sistematica, e questo è l'elemento che mi induce a dubitare ancora. Poi per il resto sposo tutto quello che ha detto Camilla Conti, però io non strumentalizzo niente e mi limito a dire, fossi un familiare, e lo dico anche da persona che l'ha conosciuto, dico ma perché non ci sono risposte concrete a tutte queste domande? Adesso andiamo alla interruzione sulla borsa e sulla pubblicità e poi torniamo sempre con Davide Vecchi, l'autore del libro Il caso David Rossi, Chiare lettere, e Camilla Conti, giornalista del Giornale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta 16:42, primi 38 secondi, con noi l'autore del libro Il caso David Rossi, il diciamo archiviato due volte come suicidio, l'ex capo della comunicazione che il 6 marzo 2013 finisce sotto per strada il palazzo del Monte dei Paschi, e Davide Vecchi, l'autore del libro, e Camilla Conti, giornalista del Giornale. Avete sentito che Camilla dice attenzione, però io sono convinta in realtà che è stato un suicidio, attenti alle strumentalizzazioni che hanno a che vedere con la politica di Siena, che hanno a che vedere con tutto ciò che non sappiamo ancora dei passaggi decisivi che poi portarono da Anton Veneta in poi alla crisi conclamata della banca. Io continuo a dire sì, però il libro comunque ripropone interrogativi su quei minuti e su perché le indagini non si sono poste il problema di ricostruirle bene, perché l'ipotesi che ci fosse qualcuno nella stanza delle rosse è un'ipotesi che torna con tutto quello che noi non sappiamo. È vero però, Davide Vecchi, che tu nel libro ricostruisci quello che invece si sa, cioè che fosse turbatissimo nei giorni precedenti David Rossi, era stato Profumo, che era il presidente insieme a Viola, conferma, interrogato, che lui aveva sospettato di David Rossi come colui che aveva dato al Sole 24 Ore uno scoop delicatissimo però rispetto alle indagini alla banca, e Davide Rossi morirà prima di sapere che in realtà al Sole 24 Ore l'aveva dato un consigliere d'amministrazione di Siena e non lui, quindi i sospetti dei vertici della sua stessa banca su di lui erano infondati, però quei sospetti c'erano, e anche nelle ultime persone di cui tu ricostruisci i contatti col fratello eccetera eccetera, le ultime persone che ha visto nelle 24 ore precedenti prima di finire morto erano di una persona molto turbata, è così? Sì, assolutamente, assolutamente. Lui aveva subito, appunto, come dicevo prima, queste perquisizioni che lo hanno lasciato sconvolto, tant'è che aveva il terrore di essere arrestato, a casa, in famiglia, non parlava perché temeva ci fossero i cimici, ma scriveva dei bigliettini a mano anche per rivolgersi alla moglie e alla figlia di lei. Era appunto in uno stato di terrore, sostanzialmente, tant'è che è questo che lo spingerà poi a scrivere due giorni prima di morire, di essere trovato morto, a Viola, le mail nelle quali chiede appunto all'allora amministratore di MPS quasi il permesso di rivolgersi ai magistrati, no? Scrive una mail nella quale dice: io, questi signori secondo me mi hanno inquadrato male, io ho lavorato con tutti, con Piccini, con la fondazione, col comune, con la banca, so molto, potrei aiutarli se solo mi chiedessero cosa vogliono sapere. È da lì che questo scambio drammatico tra Viola e Rossi, al quale l'amministratore delegato in realtà risponde un po' male, no? Con modi bruschi: non voglio sapere cosa succederà, lasciami riflettere. Lui era totalmente sconvolto, rimasto sconvolto da queste perquisizioni. Io l'avevo visto una settimana prima. Viola, tra l'altro, dirà, naturalmente, quando chiamato a dire cosa ricorda di questi contatti, dirà di non ricordare quasi nulla, cioè dirà: ma mi sembrava che poi chiedesse incontri per un evento che doveva avvenire. Sì. Insomma, dirà di non ricordare, che è un po' complicato da credersi. Sì, anche perché risponde alle mail. E poi, in un secondo momento, sempre in un processo che è quello, fra l'altro, poi grottesco di tutta questa vicenda, qual è? Che a processo c'è la vedova ora, l'unico processo in tutta questa storia in corso è quello che riguarda la vedova, ma questo è un altro discorso. No, però ricordiamolo perché agli ascoltatori, perché non lo sanno, quindi perché? Riguarda me e la vedova, perché io pubblicai le mail appunto tra Rossi e Viola, nella quale due giorni prima ce n'era una addirittura nella quale Rossi diceva: stasera mi ammazzo, aiutatemi. E il giorno prima di pubblicarli chiamai addirittura Viola chiedendogli un commento se si ricordava di queste mail, e lui mi disse, e l'ho riportato correttamente nel pezzo del Fatto Quotidiano, che lui in quei giorni era all'estero. Secondo i PM queste mail me le avrebbe consegnate la moglie, perché voleva farle pubblicare sul Fatto Quotidiano per poter poi ricattare la banca e speculare sulla morte di David. Cosa che sinceramente, a parte sorvolando sul fatto che se uno vuole ricattare qualcun altro con dei documenti riservati non li rende pubblici pubblicandoli su un giornale nazionale, ma al netto di questo, poi comunque c'è un processo che finirà il 1 dicembre, non ci sono risultanze al momento, però sai, dobbiamo rispettare il processo in corso. Aspetta, quindi, informazioni sulle strade e poi torniamo con gli ultimi 10 minuti. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati cari ascoltatori. Stiamo parlando del caso Davide Rossi, il libro Chiare Lettere, dedicato alla vicenda della morte del portavoce di Monte dei Paschi il 6 marzo 2013. Molti voi chiedono: ma insomma, ma come? Ma è possibile? Non è che siete di parte? Scusate, nel libro troverete, per esempio, che solo nella seconda indagine aperta da un PM che si affiderà a perizie e a RIS, cioè eviterà in qualunque modo nelle indagini di interloquire o di agire attraverso bracci operativi senesi, chissà come mai, ecco, cosa che forse andava fatta fin dall'inizio, scoprirete, per esempio, che nella prima indagine non sono state richieste e acquisite le immagini che c'erano di tutte le telecamere interne per documentare e vedere chi c'era all'interno del palazzo. Ecco, glielo chiedono 3 anni dopo, quando arriva un PM che ha criteri diversi, e naturalmente la banca dice: certo, avevamo tutto, peccato che entro 7 giorni noi li distruggiamo, quindi nessuno ce l'ha chiesto, ed ecco, non ci sono. Dice: ma per l'uscita dei tornelli? No, i tornelli inattivi, perché arriveranno solo pochi mesi dopo, e così via. Nel libro trovate tutte elencate le cose, francamente, un po' sulle quali è difficile buttarle giù. Torno a Camilla Conti per fare invece una domanda che è nel cuore di di ciò di cui lei si occupa. Cioè, ma secondo te a questo punto e in questa parte del 2017 tu sei convinta che di ciò che non sappiamo, di ciò che è avvenuto davvero in alcuni passaggi decisivi che poi hanno portato alla crisi della banca, per cui oggi c'è il tesoro dentro, sapremo qualche cosa di più? Ti aspetti che dalle indagini di apprendere qualcosa di più, oppure no? Perché ti dico subito, la mia opinione è no. La tua? No, come te, assolutamente, stavolta proprio condivido in pieno, e soprattutto sicuramente non sapremo niente da questa commissione di inchiesta sulle banche. Bravo. Partita tardi, fatta male, non arriverà da nessuna parte, del tutto inutile. Ripeto, bastava leggersi i giornali, Il Fatto, L'Espresso, Il Giornale, degli ultimi 10-15 anni, e non c'era bisogno di una commissione di inchiesta. Quindi la risposta assolutamente è no, non si chiariranno punti oscuri. Spero invece, guardando al futuro, perché tanto ormai il passato purtroppo è sepolto, che in futuro non vengano ripetuti gli stessi errori. Questo lo posso sperare. Io credo però, Camilla, che siamo vecchi abbastanza di questo mestiere per sapere che se non si fa la dovuta chiarezza e non si accertano nel modo più giusto e corretto le responsabilità individuali, i meccanismi collusivi del passato che non emergono non facendo chiarezza sono destinati a ripetersi in forme e con protagonisti diverse. Ma io temo di averlo visto troppe volte già nella storia delle banche italiane questo meccanismo. Se non si fa chiarezza, la collusione impera. Tu pensi di no? No, assolutamente, sono d'accordo con te, e questo si ricollega al tema del rischio di strumentalizzazione, ecco, del libro di Davide, che va letto, e anzi faccio i complimenti perché è tutto bene e mette insieme tutti i numeri senza aver bisogno di immagini, video che magari fanno un po' scena però confondono più le idee. Quindi sono messe nero su bianco, numeri, date, eventi, eccetera. Quelle strumentalizzazioni di cui parlavo prima sono il sintomo dell'acquazione a ripetere, dei grovigli che ritornano, quando, devo dire la verità, c'è ben poco da aggrovigliare in questo momento, perché dentro la banca c'è lo Stato. Quando lo Stato andrà via entro 5 anni, arriverà finalmente questo benedetto mercato che serve tanto al Monte dei Paschi. Quindi il groviglio si spegnerà da solo, poi da lì ad accertare le responsabilità questa sarà dura. Bisogna stare attenti perché il groviglio è sempre lì che si muove. Siena è una città dove ancora i tentacoli si muovono per cercare di portare via quel poco che è rimasto, ma ancora si muovono, e questa campagna elettorale per le comunali del 2018 lo dimostra. Grazie a Camilla Conti, e speriamo di continuare a invecchiare a lungo insieme. Tu sei giovanissima rispetto a me, occupandoci di queste vicende. Chissà, forse riusciremo a vedere un mercato che ridà forza e solidità e un buon matrimonio al Monte Paschi. Ma ancora tanto deve passare prima di quel momento, secondo me. Davide Vecchi, alla fine del libro tu ipotizzi diversi finali possibili. In sintesi, li dici in 2 minuti ai nostri ascoltatori? Guarda, all'inizio hai fatto sentire la notizia dell'archiviazione, no? Giustificata dal procuratore capo Vitello con ragionevole e altamente improbabile. In base quindi a tutte le risultanze dell'indagine, quindi a tutto quello che c'era in queste 2 inchieste svolte dalla procura, io ho tenuto conto appunto del ragionevole e dell'altamente improbabile e ho stilato 3 ipotesi che potevano essere appunto altamente probabile o improbabile e ragionevole. La quindi prima. Quella della procura, che è appunto quella del suicidio, però non tiene conto del fatto, come hanno rivelato gli stessi periti della procura, che Davide aveva subito una colluttazione prima. Quindi, prendendo anche per buono che lui si sia ucciso da solo, la deve seconda. Essersi picchiato prima. La seconda è quella dei legali di parte, secondo i quali c'è stato un omicidio. Quindi la terza? Due aggressori. La terza, secondo me, è quella in parte più plausibile, è che lui sia stato in qualche modo spinto a uccidersi, perché è aggredito, perché alcuni hanno cercato di convincerlo a non andare a parlare con il PM, perché sapeva troppe cose, perché era troppo agitato, perché era forse meglio evitare, no, di rivolgersi ai PM a raccontare chissà cosa, sia su PC che sulla banca, e lui invece vedeva e considerava la possibilità di parlare con i magistrati l'unica via di fuga. E allora, su questo, io ne ringrazio anche te per questa puntata che spero i nostri ascoltatori abbiano gradito, gli sia venuto un po' di curiosità. Il libro finisce proprio così, vi leggo le ultime righe che l'ascoltatore. A distanza di 4 anni nessuno è riuscito a dare ad Antonella, la vedova, neanche la risposta all'ultima domanda che lei rivolge a Davide. Ma sei andato in procura? Non ha ancora saputo neppure se avesse fissato un appuntamento con i magistrati. Ma loro, i magistrati, lo sanno sicuramente. Loro sanno questa è Siena. Grazie ai nostri ospiti e appuntamento con me domani alle 8:15 con Luca Telese su 24 mattina, il pomeriggio alle 16 qui a Versione di Oscar.